Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi, in occasione della decima puntata del programma, sbarchiamo per la prima volta in Cina. Lo facciamo per dimostrare come, in questi ultimi anni, il paese orientale sia diventato un polo di attrazione per i giovani professionisti italiani, ma non solo, in grado di competere in questo settore persino con gli Stati Uniti, terra tradizionale di espatrio dei nostri migliori cervelli. Un dato che forse dovrebbe portarci a una seria riflessione su dove va il mondo, con quale velocità e utilizzando quali parametri. Sono gli stessi applicati in Italia, viene da chiedersi? Pensa che in media in un anno circa 250.000 cinesi vanno all'estero, le loro mete principali sono Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada. Sono figure molto ricercate, tanto che aziende e istituzioni in Cina fanno i ponti d'oro affinché ritornano a lavorare presso di loro. Come l'Italia. più o meno. Alberto Orengia, 27 anni, è project manager in una società di consulenza basata a Shanghai. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. L'effetto della crisi economica lo si è osservato soprattutto nel rallentamento dei tempi di occupazione. Trovano lavoro nei primi 4 mesi dalla laurea il 70% dei laureati rispetto al 90% dell'anno precedente. Lo ha affermato il rettore del Politecnico di Milano Giulio Baglio inaugurando l'anno accademico. Per Baglio a preoccupare il fatto che i nostri laureati sono sempre più richiesti e assunti all'estero, soprattutto in Europa. Si fa poco, dice Baglio, per trattenerli. La concorrenza straniera è più agguerrita, assicura stipendi iniziali maggiori dei nostri e migliori prospettive di carriera. Più ottimista invece il quadro tracciato da New York. L'Europa e in particolare l'Italia si starebbero finalmente svegliando per riportare a casa i cervelli in fuga negli Stati Uniti. Di questo tema si è parlato recentemente al consolato italiano nella Grande Mela, che ha ospitato e promosso un incontro per far conoscere le offerte europee ed italiane. L'evento è stato organizzato dall'ISNAF, la Italian Scientists and Scholars in North America Foundation, che rappresenta i cervelli italiani negli Stati Uniti. È stato varato il finanziamento da 28 milioni di euro per i progetti di ricerca condotti da ricercatori under 40. La graduatoria dei progetti vincitori è stata approvata dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria. Secondo il Ministero della Salute, la graduatoria rappresenta una mappa delle eccellenze della ricerca biomedica e clinica in Italia. I progetti finanziati sono stati selezionati a partire da 997 proposte esaminate da revisori stranieri e in seguito da un comitato di valutazione di giovani ricercatori. È la sede della Dante Alighieri di Toronto a ospitare oggi la conferenza della Federazione dei Giovani Italo-Canadesi. E infine terza candelina per italiani.lu, il primo portale interamente dedicato alla comunità di italiani in Lussemburgo. Nel Granducato sono ben 46 le associazioni e gli enti tricolori presenti. Maggiori informazioni su www.italiani.lu. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo 5 profili di amministratori per la Commissione Europea nei settori dell'amministrazione pubblica, in quello legislativo, in quello economico, della revisione dei conti e infine dell'Information and Communication Technology. Scadenza per il CV 15 aprile, info su europa.eu/epso. Un legal officer all'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra, scadenza per il CV 30 marzo, info su irecruit.who.int. Una cattedra in economia all'Università di Birmingham, scadenza per il CV 8 aprile, info su www.hr.bham.ac.uk/jobs. Infine un economista all'Ecologic Institute di Berlino si occuperà della dimensione economica delle politiche ambientali, scadenza per il CV 6 aprile, info su ecologic.eu. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta finalmente in Cina. Finalmente è il caso di dire, perché anche noi, lavorando sul programma, abbiamo scoperto come l'espatrio dei nostri giovani professionisti verso Oriente stia assumendo contorni numericamente e qualitativamente interessanti. Nome? Alberto. Cognome? Orengia. Età? 27 anni. Città di origine? Ivrea, Torino. Studi? Laurea lingue straniere, laurea economia. Anno in cui hai lasciato l'Italia? 2007. Per andare dove? Shanghai, Cina. Perché? Studio e poi lavoro. Quale lavoro svolgi attualmente? Project manager, settore consulenza. Dove? A Shanghai per Nuovo Mondo International. Tornerai? Spero di sì. Mm. In Cina ho trovato un ambiente molto dinamico, aperto ai giovani, dove il cambiamento è percepito come necessario per il miglioramento e con una propensione al rischio maggiore che in Italia, dove una persona giovane come me può avere responsabilità, se le merita, e può crescere velocemente. Così Alberto scrivi in una email a giovanitalenti@radio24.it. È davvero un bel ribaltamento di prospettiva, no Alberto? La Cina come terra promessa, in grado di sopperire all'incapacità italiana di valorizzare i propri giovani professionisti. Ma com'è possibile? Effettivamente è una realtà molto diversa. In Cina, come dicevo, ho trovato un ambiente molto diverso. Un altro fattore interessante è sicuramente la diversità di trattamento riservato ai cinesi che investono nella loro formazione all'estero. E pensa che in media in un anno circa 250.000 cinesi vanno all'estero, le loro mete principali sono Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada. Sono figure molto ricercate, tanto che aziende e istituzioni in Cina fanno i ponti d'oro affinché ritornano a lavorare presso di loro. Come l'Italia. Più o meno. Alberto, il governo ha recentemente provveduto a fornire alloggi migliori, innalzato status sociali, fornisce incentivi per l'acquisto di auto e case e altri incentivi per iniziare un'attività, affinché queste persone che tornano dall'estero dopo aver studiato incominciano un'attività in Cina. Di questo torniamo a parlare tra pochissimo, ma per cominciare parliamo di te, parliamo del percorso che ti ha portato in Cina partendo proprio dai tuoi studi. Terminati gli studi liceali, intrapresi lo studio della lingua cinese come una sfida per scegliere qualcosa di diverso dai miei allora compagni di studi e per ottenere delle competenze che ero sicuro mi sarebbero servite per la mia futura carriera in Italia. Ho conseguito la mia laurea triennale in lingue straniere nel 2005, anno nel cui passai anche un periodo di studio in Cina per perfezionare la mia lingua. Successivamente, dopo una prima esperienza lavorativa in Inghilterra, ho deciso di completare il mio curriculum di studi intraprendendo lo studio dell'economia. Nel 2008 ho ottenuto una laurea specialistica con un progetto creato da tre università che mi ha portato dall'Italia alla Francia ed infine in Cina a Shanghai. Come arrivi in Cina? Questo è interessante. In Cina arrivo attraverso la laurea specialistica che ho conseguito qui nell'Università di Shanghai e durante un seminario a cui presenziai ancora in Italia, ebbi occasione di conoscere un imprenditore che lavorava già con il mercato cinese e questo imprenditore mi consigliò di mandare così application per una serie di aziende che erano già attive qui sul mercato cinese, aziende che facevano consulenza per investitori italiani. Io inviai un curriculum e nell'arco di 4 giorni lavorativi ricevetti una risposta, mi fecero un colloquio conoscitivo e via telefono in inglese, dopodiché nell'arco di altri 3 giorni lavorativi mi confermarono che ero stato preso. Non conoscevi nessuno, immagino, là. Non conoscevo nessuno. Alberto, si dice sempre, lo sentiamo dire in molte trasmissioni, lo leggiamo sui giornali, che occorre anche cominciare a guardare a est, che occorre cominciare a mettersi nel curriculum delle conoscenze della Cina, di cinese, insomma, avere magari anche delle esperienze. Ora, la cosa che non capisco sinceramente è, tu che hai nel tuo curriculum tutto ciò, in Italia hai fatto invece un po' fatica quando hai provato a cercare lavoro, no? Sì, ho fatto molta fatica. Devo dire che a livello di studio le mie esperienze in Italia sono state ottime. Ho sempre cercato di dare il massimo ottenendo riconoscimenti a livello accademico dal liceo fino all'università. A livello lavorativo purtroppo le esperienze sono state inesistenti, pochi colloqui e finiti male. Posso leggere le risposte che ti hanno dato i recruiter che tu mi hai mandato per email? Certo. Lei era perfetto ma abbiamo trovato un amico, è in linea con i requisiti ma un po' troppo giovane. Ah, ma le avevamo fatto un colloquio, ma ti hanno detto veramente questo? Sì, mi hanno detto questo e ce n'è un altro che aggiungo anche in diretta, che un'altra volta per una posizione dove era specificato, leggo in inglese, English Speaking Area Manager, mi fu risposto che il responsabile della ricerca non era stato in grado di leggere il mio curriculum perché era in inglese, per cui... Insomma, questo la dice tutta. Tu scrivi a giovanitalenti@radio24.it criticando un po' il sistema di selezione italiano. Dici, c'è una prevalenza delle relazioni personali sulle competenze, dipartimenti di risorse umane miopi o inesistenti e inadeguatezza dei recruiter. Se sono accuse molto forti. Sì, sinceramente mi sento di dire questo per la realtà di fatto che ho potuto constatare e anche per come posso vedere l'Italia tramite gli occhi di chi è rimasto lì, per cui i miei precedenti colleghi di studi e compagni di università che sono rimasti in Italia, i quali purtroppo stanno facendo molta più fatica di me e mi descrivono un ambiente in cui il luogo di lavoro è un po' un luogo di terrore, in cui tutti hanno paura di sbagliare e il cambiamento è visto come una fonte di paura per il management di qualsiasi azienda e si fa davvero tanta fatica a crescere. Quindi, diciamo, per chiudere questo capitolo volevo anche raccontare un altro aneddoto in cui io ho avuto occasione di conoscere un imprenditore qui a Shanghai, un imprenditore italiano che si trovava in viaggio di lavoro, il quale mi disse, parlando una volta di queste tematiche, quindi della difficoltà dei giovani di trovare un lavoro in Italia, mi disse: ah, guarda, io se una persona è laureata non gli faccio neanche un colloquio. Va bene. Alberto, le riflessioni che fai sono abbastanza pesanti, nel senso che in qualche modo ritrae un'Italia dove il giovane professionista che può portare in qualche modo un cambiamento, può innovare, viene messo da parte, viene messo in un angolo, e questo è veramente brutto, potremmo dire. Tu invece in Cina fai il project manager, e di cosa ti occupi esattamente? Io mi occupo di portare a termine dei progetti. I progetti sono diverse tipologie di attività che sono commissionate da aziende italiane che stanno qui in Cina oppure che hanno intenzione di cooperare con il mercato cinese in qualche maniera, e io sono il responsabile di progetto, quindi io gestisco 2, 3, 4, 5 persone a seconda dell'entità del progetto qui a Shanghai e sono responsabile di riuscire a portare a termine quelli che in inglese si chiamano key deliverables, quindi gli obiettivi che il nostro cliente si è preposto per quanto riguarda la sua attività qui in Cina. Tu hai solamente 27 anni, ma hai fatto una progressione di carriera in Italia probabilmente inimmaginabile. Raccontaci come funziona lì. Sì, per quanto riguarda la mia esperienza personale, io iniziai all'epoca come stagista, lavorando part-time e finendo la mia laurea specialistica nelle serate. Dopo 3 mesi venni riconfermato come Project Manager Assistant e dopo meno di un anno fui promosso a Project Manager. Potrei citare anche casi simili di miei amici italiani che hanno avuto un'esperienza simile qui in Cina. Tu hai già raccontato come la Cina in qualche modo sia un paese poi aperto, paradossalmente quasi più dell'Italia, ai giovani, perché si va anche a riprendere. Ha capito che è giusto mandare i giovani a studiare all'estero, a formarsi all'estero, e che occorre però poi riprenderseli. È un trend in crescita secondo te questo? Sicuramente sì, per la Cina lo studio all'estero è oggi una strategia di sviluppo fondamentale. E gli studenti vengono incoraggiati a tornare per mettere a disposizione le loro conoscenze a favore dello sviluppo del loro paese. E questi concetti sono già stati furono espressi per la prima volta da Deng Xiaoping, leader della Cina, nel 1978. Si stima che l'80% per esempio dei membri delle accademie cinesi scientifiche e di ingegneria abbiano studiato all'estero, l'80%. Mentre in Italia, secondo un'indagine di Bachelor che abbiamo reso noto la settimana scorsa, un neolaureato su 2 se ne vuole andare e pensa poi quasi sempre di non tornare, e c'è una disoccupazione in aumento tra i laureati con buste paga poco sopra i 1000 euro. Che dici? Beh, direi che si commenta da sola questa situazione. Alberto, la domanda di rito prima di chiudere questa prima parte di intervista: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti? Come? La vedo come la vedono molti altri connazionali e non connazionali, anche molti miei amici cinesi. Insomma, un paese piccolo e concentrato su se stesso. In secondo luogo, come raccontavo prima, la vedo attraverso gli occhi dei miei colleghi di studio rimasti in patria, che mi raccontano di ambienti lavorativi in cui la paura dell'errore è sovrana, purtroppo. Infine, è un paese in cui il merito acquisito in campo accademico non è sempre riconosciuto a dovere. Per quanto riguarda questo aspetto, ho già citato le parole dell'imprenditore di cui raccontavamo prima, per cui se uno è laureato non gli faccio neanche un colloquio. Cercherei di avvicinare il mondo dell'università e più in generale della scuola a quello del lavoro, attraverso progetti di cooperazione e scambio sicuramente più intensi e partendo sin dai primi anni di università. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Alberto Orengia, 27enne project manager per una società di consulenza con base a Shanghai, dove è responsabile del team di progettazione, con il compito, tra le altre cose, di condurre ricerche di mercato e pianificare strategie commerciali per le aziende italiane che intendono internazionalizzarsi e investire in Cina. Alberto, che ha brevemente lavorato anche a Londra, parla inglese e mandarino in modo modo fluente. Saro Capozzoli, tu oltre che un'istituzione per gli italiani a Shanghai, nonché voce nota per gli ascoltatori di Radio 24, sei anche General Manager di Iesa Investment and Management, la tua creatura, e hai iniziato la carriera un po' prima di Alberto. Quali sono gli ingredienti giusti per sfondare in Cina, partendo dalla tua esperienza personale? Io ho iniziato un po' tempo fa, diciamo 20 anni fa, sono arrivato all'inizio degli anni 90, grazie al gruppo Eni, e mi hanno mandato in Cina per una, in quel momento lì, per seguire alcuni progetti, sembrava un progetto temporaneo, e poi il contratto mi è stato allungato di volta in volta finché sono ancora qua. Ecco, dopo 20 anni praticamente sono ancora qui, facendo un'esperienza anche di, diciamo, partendo nel 98 con una mia azienda, appunto sulla scia del gruppo Eni nel 98, ho fondato la mia azienda che ancora esiste, che si è nel frattempo sviluppata da zero. Sono pienamente d'accordo su quello che ha detto Alberto, ecco, io ho rivisto molto quello che, diciamo, sento ogni giorno dai giovani che arrivano, approdano qui, a volte proprio all'avventura, arrivano a Shanghai, arrivano a Pechino, cercando appunto nuove opportunità, anche perché molte aziende italiane stanno aprendo questo mercato con nuove fabbriche, nuove industrie, nuove attività commerciali, e c'è una richiesta qui, diciamo, di expertise e di personale, e cosa che, diciamo, in Italia non si riesce a comprendere questa esigenza, no? E molto spesso appunto le aziende arrivano qui e si scoprono che non hanno persone che parlano inglese, che non hanno persone che conoscono il mercato, oppure addirittura persone che vogliono addentrarsi nell'interno della Cina, e quello è il problema più grosso. Comunque la Cina è un po' come nuova frontiera per i giovani, mi pare di capire. Sì, è una nuova frontiera, è un qualcosa di nuovo, di eccitante, infatti si inizia normalmente con Shanghai, che è una città che non chiude mai, è aperta 24 ore, c'è una città che anche il weekend si lavora, io sono 6 o 7 anni praticamente che non faccio una pausa nel weekend, perché è impossibile, le attività che vanno a sprombattute, non si può proprio pensare di fare lunghe ferie e lunghe, diciamo, vacanze. Però dall'altra parte c'è la soddisfazione di vedere i progetti realizzati, anche noi portiamo in Cina molti investimenti italiani, non solo, costruiamo le strategie, facciamo anche servizi di dancing per le nostre aziende, quindi facciamo anche noi tanti colloqui e vediamo appunto che è sempre più richiesto la presenza da parte delle aziende italiane, di avere presenza di personale italiano in Cina, dall'altra parte gli italiani che vengono e cercano spazi che non trovano in Italia. Eh già. Alberto, c'è qualcosa che vorresti chiedere a Saro? Beh, vorrei chiedergli innanzitutto come ha vissuto la propria avventura di imprenditore qui in Cina, in particolare per quanto riguarda quanto si può scommettere e vincere avviando una propria attività in Estremo Oriente. Beh, diciamo, in questo momento mi trovo nel mio ufficio, noi abbiamo un ufficio che praticamente occupa 70 persone, io ho iniziato dalla scrivania di casa mia, un appartamento di 60 metri quadrati, ecco, e premetto, la scrivania dove sono adesso è la stessa che avevo 12 anni fa, quindi ci tengo a dire questo, cioè questo è un paese che ti permette di avere un'idea di, partendo da zero, non abbiamo mai avuto un finanziamento da una banca, abbiamo sempre lavorato sul lavoro che siamo riusciti a generare, perché qui le banche cinesi non finanziano imprese come la nostra, così di consulenza. Però siamo riusciti lo stesso a costruire, perché? Perché è un mercato che ti permette, avendo le idee giuste, di svilupparle. A suo tempo, 12 anni fa, c'era una grande lacuna qui, ad esempio quella della ricerca e la qualifica di fornitori, molti venivano qui all'avventura, trovavano appunto le fabbriche, i produttori nelle fiere, e poi si rendevano conto dei problemi, delle problematiche di mantenere la qualità e di seguire le produzioni. Quindi noi abbiamo visto questa esigenza, siamo partiti da qui. Poi abbiamo imparato tante altre cose, abbiamo costruito fabbriche, abbiamo portato qui, diciamo, anche strutture molto importanti. Questo è come, diciamo, un'Italia negli anni 50. Quello che la differenza che c'è fra l'Italia e la Cina, che in Cina è un posto dove se hai un'idea e hai la capacità, ti permette di svilupparla, ti permette di crescere. Io a volte sento che siamo più liberi qui nel sviluppare impresa che, nonostante tutti, diciamo, i paletti che pone la legge cinese, che in Italia, perché in Italia c'è un problema proprio di, diciamo, di rapporto con la realtà economica e con la realtà anche degli imprenditori, che a volte è molto un po' chiusa. Qui si ha una capacità, si apprezza che si cresce. Io faccio colloqui ogni settimana, molto spesso ho assunto anch'io sto assumendo ancora adesso stagisti che poi restano con noi molti di loro hanno qui un'esperienza di 5-6 anni e non vogliono andarsene via. Saros, io ho una domanda importante da farti, che penso anche molti giovani vogliono sentire da te dei consigli. Chi, diciamo, magari ha una laurea, un master, ha voglia di fare e vuole scoprire nuovi mondi, vuole lasciare magari questa Italia un po' imbalsamata e magari pensa alla Cina, quale consiglio gli daresti? Dipende dal tipo di laurea. Se sono una laurea finanziaria, economia, finanza, diciamo questo settore, tipo laureato in Bocconi o la LUIS, università economiche, io consiglierei anche di proporsi alle aziende, alle istituzioni finanziarie cinesi, che in questo momento stanno cercando molto l'esperienza, diciamo anche le capacità di analisi che si sviluppano nelle nostre università, e anche la possibilità appunto di loro di interagire con personale che parla inglese. Cioè la finanza cinese sta facendo un passo in avanti, sta facendo passi da gigante. Chi ha una laurea tecnica, un master appunto in un settore tecnico, può rapportarsi sia con le aziende italiane che qui che stanno arrivando sempre più numerose, ma anche con strutture cinesi che hanno bisogno anche essi di internazionalizzarsi. Loro vengono in Europa e non riescono a trovare le esperienze e dinamiche che si trovano qui in Cina. Quindi facendo un'esperienza in Cina per poi tornare con un'azienda cinese in Europa potrebbe essere proprio il coronamento di una carriera. Grazie Saro, sentire le tue parole dà veramente un po' di speranza. Alberto, un'ultima domanda, ma proprio in un flash, domanda di rito: quale consiglio daresti a un tuo giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà, sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Innanzitutto di riflettere su se stesso, i propri interessi, ambizioni. In seguito di identificare quali sono i paesi che potrebbero rappresentare il terreno più adatto a sviluppare le proprie potenzialità nei campi di interesse e infine soprattutto di avere un po' di coraggio. E siamo ora giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi, come ogni ultimo sabato del mese, apriamo una finestra su una sezione di Italians Online, la più grande comunità mondiale, virtuale, ma non solo, di italiani all'estero. Fabio Zilberstein, coordinatore della sezione di Bruxelles, la capitale d'Europa. C'è stato un radicale cambio dagli anni 50-60, dove c'è stata la prima grande ondata di immigrazione italiana in Belgio, a quella di oggi. Quella storica degli anni 50-60 seguì ovviamente la guerra e la ricerca e la fame di lavoro, un qualsiasi tipo di lavoro. Oggi invece siamo un po' all'opposto, la fame di lavoro c'è, ma non è un lavoro qualsiasi. L'immigrazione che vedo di oggi, di persone che sono nella fascia età tra i 25 e i 40 anni, è quella cosiddetta della fuga dei cervelli, cioè persone con una scolarità molto alta, quasi tutti laureati o con master, che cercano all'estero le opportunità che in Italia non riescono a trovare. È un fenomeno nuovo a Bruxelles, o parliamo già di diversi anni in cui si è sviluppato? Per Bruxelles non è un fenomeno nuovo come lo stiamo dipingendo in questi ultimi anni in Italia, perché essendo comunque una capitale ed essendo anche la capitale dell'Europa, cioè aveva sempre attirato alcuni profili alti per lavorare nelle istituzioni o in tutta quella che è l'attività intorno alle istituzioni. Quello che è sicuro è che si è intensificato questo fenomeno. Se qui le istituzioni hanno sempre attirato ormai da 50 anni, posso vedere che negli ultimi 10 anni ci sono sempre più connazionali. Io sono a Bruxelles da 11 anni, venni 11 anni fa per fare uno stage, cominciare, ed ero solo, diciamo, nella mia cerchia di amici. Invece ho visto che in questi 10 anni tante persone che già conoscevo dall'Italia mi hanno raggiunto. E nella sezione Italians Online di Bruxelles, che tipo di professioni sono rappresentate? Qui abbiamo di tutto, devo dire, non c'è una polarizzazione come qualcuno potrebbe pensare, solo funzionari o solo persone nate dagli immigranti degli anni 50-60. Abbiamo sicuramente un picco, se vogliamo fare una piccola statistica, nella fascia di età tra i 25 e i 40 anni, anche perché il sito è un sito moderno che nasce proprio per far incontrare queste persone che arrivano in un paese nuovo e quindi tendenzialmente sono questa fascia d'età. A livello di lavoro sì, c'è una parte di funzionari, di persone che sono intorno, ma la stimo intorno al 20%. Tutto il resto sono italiani che lavorano nel tessuto economico belga, sia nelle Fiandre che in Vallonia che su Bruxelles stesso, e si sono adattati a vivere in un paese estero, quindi non è che sono venuti in quella enclave istituzionale. Soprattutto quando sono giovani, questi italiani perché lasciano il paese? Mi sa che è un ritornello che si sente spesso nella tua trasmissione, essenzialmente in Italia non trovano riconosciuta la loro professionalità e vengono qui per cercare, ma non un lavoro eccezionale, ma semplicemente un lavoro normale, ma a condizioni professionali chiare, con il rispetto della professionalità e il riconoscimento poi dei propri meriti e dei propri studi. Qui c'è comunque molta competizione, quindi uno non è che viene qui, trova il posto fisso e poi si mette a dormire al lavoro. C'è questa competizione sana che ti spinge a dare il meglio di te, anche se non siamo agli eccessi degli Stati Uniti o di altri paesi più competitivi. Un'ultima cosa riguarda l'attività di Italian Soline a Bruxelles, su cosa vi concentrate in particolare? Dall'aperitivo a una pizzata di Natale, a eventi anche per famiglie, questo è un fenomeno un po' nuovo, ce n'è per tutti, noi abbiamo una regola di base, chi propone organizza. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italiansonline.net, sezione Bruxelles. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanceremo settimanalmente. La discussione della scorsa settimana era: esistono barriere corporative in Italia? Quanto queste barriere, riducendo la concorrenza, impediscono di fatto l'accesso alle diverse professioni da parte dei giovani? E quanto, una volta entrati nel club, finiscono comunque col limitarne il raggio d'azione, di indipendenza e di crescita professionale? Umberto commenta amaro dal Brasile. Articolo 1, l'Italia è un paese fondato sul lavoro. Articolo 2, se non appartieni alla casta, non lavorerai. Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione. Ritenete che la Cina e l'Oriente possano rappresentare una nuova frontiera per l'immigrazione dei nostri giovani professionisti? Soprattutto quando a fronte del medesimo curriculum a Shanghai assumono con selezione e in Italia rispondono come al protagonista della puntata di oggi: lei era perfetto, ma abbiamo trovato un amico? Per contattarci potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanceremo settimanalmente la discussione. E finisce qui per oggi questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi online. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.